A tempo di sport con Massimo Callegari. Veleno, se mi baci ti do il mio veleno, una rosa scarlatta sul seno e dopo t'amerò. Veleno, dei miei baci non puoi fare a meno, se dopo sai che t'avveleno. Avremmo potuto scegliere la colonna sonora di Braveheart, Cuore impavido, ma non ce ne sono tanti all'interno del Consiglio federale, quindi quello che rimane di questi 5 anni di Calciopoli è il veleno che si perpetuerà ancora sulla Milano-Torino in attesa di eventuali ulteriori scenari e sviluppi futuri. Bentornati amici di Radio 24, le vostre telefonate all'800 24 0024, messaggi sms 349 238 6666. Vi avevo preannunciato ieri una sorpresa, in realtà era programmata da tempo e mi scuso con Giuseppe Cruciani perché ti porto qui ancora una volta nella baraonda di Calciopoli. Sono qui, ciao a tutti, ciao Massimo, mi fa piacere stare con te, lo sai. Anche a noi fa molto piacere. E da dove partiamo? Cioè partiamo dalla decisione del Consiglio federale, secondo Agnelli, no? L'aveva già prevista di non decidere. Parliamo da questa scelta che è fondata su aspetti legali, quindi sul parere dei legali della FIGC per evitare poi il ricorso dell'Inter ed eventuali pesanti risarcimenti danni da versare al club nerazzurro, dal esposto di Della Valle per creare un nuovo futuro. Da dove si può partire? Cioè, si può partire dal fatto che dietro le tecnicalità, dietro gli azzeccagarbugli, dietro i ricorsi degli avvocati si nasconde sempre, come al solito, una volontà politica. Cioè non bisogna farsi ingannare, sì, non si poteva decidere. Va bene che la federazione è il regno dell'incertezza, è sempre il regno della non decisione, e questa cosa viene ulteriormente confermata, ma dietro le questioni giuridiche c'è la volontà politica di non decidere, perché evidentemente politicamente ancora l'Inter è molto forte all'interno della federazione. Certamente la Juventus ha fatto dei passi avanti e ha portato di nuovo la questione alla discussione generale, però mi sembra che ci sia una mancanza di volontà di decidere su qualcosa che è ormai molto chiaro, almeno per me è molto chiaro, io ho una posizione ben precisa, poi ne parleremo. No, possiamo parlarne subito. Ed è quella che lo scudetto, che per me è della Juventus sul campo, non doveva essere assegnato a nessuno, e questo direi che per la Juventus dovrebbe essere il risultato minimo, ma dopo quello che ha scritto Palazzi nei giorni scorsi, il capo dell'ufficio inchiesta della Federcalcio, io credo che anche il presidente Moratti, che non vuole accettare questa cosa, dovrebbe avere un minimo di senso del pudore, che dovrebbe consigliargli di rinunciare di sua sponte nei prossimi giorni. Non lo farà mai, ma magari possiamo lanciare questa proposta, di rinunciare, magari per l'inizio dei calendari, che dici? Sarebbe una bella idea. Per la presentazione dei calendari, di rinunciare allo scudetto del 2006. Non so se questa cosa possa avere poi una sua effettività giuridica, sì, se vogliamo parlare sull'albo in questo d'oro, modo. Sull'albo d'oro neanche, però credo che sarebbe un grande gesto. E io credo che molti tifosi dell'Inter, che anche tu Massimo conosci, che tutto il nostro pubblico conosce, credo sarebbe pronto ad accettare una decisione di questo tipo. Sì, devo anche dire che vivendo queste settimane a contatto con il pubblico, hanno chiamato molte persone, rappresentanti di una e dell'altra parte, e ci sono anche molte posizioni in questo senso da una parte e dall'altra, cioè che non fa bene a nessuno, né tantomeno alla Juventus, continuare a vivere delle conseguenze e appunto del veleno che rimane, no, di Calciopoli. Non conviene a nessuno, ed è per questo che l'unica soluzione possibile è certificata l'assenza, l'inazione, la passività della Federcalcio, confermata questa, perché non è una sorpresa, per chi osserva queste cose, per chi conosce le dinamiche della Federcalcio, dove i poteri si dividono, dove si trova sempre un avvocato pronto a dire no, guarda che ci potrebbe essere ricorso di questo, la volontà di non rischiare, cioè, tipico della Federcalcio italiana. Di fronte a questo sarebbe un gesto che credo sarebbe apprezzato e farebbe anche alzare le quotazioni di Moratti come dirigente del calcio. Cioè, poi Moratti non lo ha fatto finora, probabilmente non lo farà mai, perché continua a ritenere quello scudetto un risarcimento per tutta una serie di torti che ritiene di aver subito. Però questa cosa si scontra, caro Massimo, e poi sentiremo anche gli ascoltatori su questo, contro ormai una verità accertata. La verità accertata è quella che se le telefonate che abbiamo conosciuto dopo, io non sto facendo una questione di gravità, non dico che sono più gravi queste o più gravi le altre, quasi non mi interessa la questione, perché poi se andiamo ad approfondire non è detto che la posizione dell'Inter sia più leggera di quella della Juve, sto parlando del 2006, se queste telefonate fossero state rese note nel 2006, certamente non sarebbe andata a finire come è finita. Questo è un dato che nemmeno Moratti, nemmeno il Moratti più legato a quello che è successo in quegli anni, può negare, altrimenti insomma, sarebbe come negare una realtà accertata. Cioè, se quelle telefonate fossero state rese note nel 2006, le cose sarebbero andate in modo molto, molto diverso. Sì, rimane dal punto di vista di quella che tu chiami la tecnicalità, che alla fine è quella a cui ci si deve anche attenere, sempre il discorso che questa è una relazione d'accusa, che l'Inter in questo contesto e in quel contesto non si è difesa, attualmente dovrebbe e potrebbe farlo solo rinunciando alla prescrizione, anche se poi naturalmente non c'è più purtroppo la persona di Facchetti. In questo senso, ieri tra le parole del comunicato stampa di Andrea Agnelli c'è un riferimento che non c'era stato in maniera così definita, in cui si precisa che non è in gioco qui l'onorabilità delle persone, che in taluni casi non sono in condizione di argomentare, quindi non ci sono più, e qui in gioco la credibilità ma del sistema. Ma questa è una posizione corretta, la Juventus non ha mai attaccato personalmente Facchetti, e io credo che potrebbe essere interessante anche da parte vostra di A Tempo di Sport nei prossimi giorni sentire anche tifosi importanti, esponenti del mondo interista, che secondo me potrebbero spingere Moratti a prendere una decisione di questo tipo, cioè spingere qualcuno a uscire allo scoperto: rinunciamo allo scudetto del 2006, non è uno scudetto nostro, è uno scudetto di altri, o comunque è uno scudetto che non si deve assegnare, e rinunciamo a questo scudetto. Credo che potrebbe essere l'unica soluzione possibile. C'è un'altra vicenda su cui credo che bisogna interrogarsi, ed è secondo me uno scandalo grosso, ed è quello che riguarda il signor Auricchio. Come sapete, il signor Auricchio è quello che tirò fuori queste intercettazioni, su cui è un ufficiale dei carabinieri che lavorò su queste intercettazioni. Oggi però non è più carabinieri, cioè ancora carabinieri, ma è in aspettativa perché è nel gabinetto del sindaco di Napoli De Magistris, cioè fa un altro mestiere. Allora, io credo che, siccome tra l'altro oggi ha una carica pubblica, cioè non è più un ufficiale dei carabinieri, dunque tenuto in qualche modo a riservo, dovrebbe dare delle spiegazioni. Signor Auricchio, dia delle spiegazioni chiare, ufficiali, sul perché nel 2006 queste telefonate non uscirono fuori. Parli, adesso che può parlare. Devo dire che stanno parlando molto anche gli ascoltatori, tra un attimo sentiremo i primi, ci sono un po' di sms, tra cui insomma c'è chi dice: le pagine che ha scritto Palazzi vanno lette tutte, c'è un'altra diversa dai titoli dei quotidiani, in realtà ci sono tante altre squadre coinvolte, ci sono squadre che erano coinvolte come il Milan, che vedono il loro rappresentante Meani tirato in causa ulteriormente, eccetera, eccetera. Alberto dalla provincia di Reggio Emilia, democraticamente sempre, prego. Sempre democraticamente, buongiorno. Il dottor Palazzi mi ha anticipato, perché volevo proprio dire di Auricchio, il quale secondo me adesso dovrebbe insomma spiegare il motivo per cui 5 anni fa ha guardato solamente in un senso e non a 360 gradi. Io non so se fosse una questione di tempo, perché il tempo era limitato e dovevano decidere, però mi sembra perlomeno che qualche spiegazione la debba dare. Vedremo se la darà. Moreno dalla provincia di Milano, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una precisazione sul problema dello scudetto. Il dottor Cruciani, che tra l'altro saluto, sono un ultra della Zanzara, io assolutamente. Buonasera. Sì, buonasera. Anzi, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, quello che è. Cioè, volevo dire che il problema politico è assolutamente vero, perché guarda caso anche Narducci, quello che nel 2006, anche fino a un anno e mezzo fa, si è preso giusto di dire che piace o non piace, le telefonate all'Inter non ci sono. Cioè, lavorano per la stessa fazione. Sì, ma no, io quando dicevo problema politico non mi riferivo alla politica come nel senso letterale del termine, cioè non credo che ci sia una questione di destra, di sinistra, di centro-sinistra e di centro-destra, questione di poteri, di fazioni all'interno del mondo del calcio. Cioè, non, non, in questi casi la questione dal punto di vista politico è trasversale. Certo, non è casuale il fatto che due esponenti dell'inchiesta di quel periodo, del 2006, come Auricchio e come Raducci, lavorino entrambi per De Magistris, e cioè per un certo tipo di, per un certo modo di intendere la giustizia, eccetera eccetera. Però lo stesso De Magistris dove si può collocare? A destra, a sinistra, chissà. Andiamo molto in là. E nel frattempo anche un po' di attualità. Il Palermo affronterà la vincente della sfida tra gli albanesi del Villasnia Scutari e gli svizzeri del Tunnel, terzo turno preliminare di Europa League, andata in trasferta per il Palermo il 28 luglio, ritorno al Barbera il 4 agosto. Nel match di andata fra queste due squadre, 0-0 ieri in Albania. Tra poco torniamo dopo il traffico, perché insomma va bene Calciopoli e tutto, però arrivi da Roma e mi devi raccontare un po' anche com'è l'atmosfera a Roma, e voglio capire anche quali sono le tue sensazioni dopo un anno nel salotto di Controcampo. Danilo, che si proclama tifoso interista, dice: concordo con la restituzione dello scudetto, e invece Mario di Pescara è egregio signor Cruciani, quindi si rivolge a te: lei non conosce per niente i tifosi interisti, noi non rinunceremo mai a quello scudetto, del resto lei è amico di Moggi, quindi si spiega tutto. A parte che non ho mai incontrato Moggi in vita mia, a parte questo, è difficile essere amici di qualcuno che non hai mai incontrato in vita tua, Molto difficile. Comunque, insomma, si può essere amici virtualmente, si può essere amici virtuali oggi nell'epoca di Facebook. Non ho mai incontrato Moggi, non sono amico di Moggi, punto. Tra poco parliamo anche di come si vive questa fase molto calda a Roma, però ancora ascoltatori, 800 24 00 24, Ottavio da Milano. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Saluti a Cruciani, anch'io la sento tutte le sere, è un piacere sentirlo anche a quest'ora. Grazie, dite. Io non voglio entrare nella questione prettamente tecnica, giudiziaria della questione, anche se a suo tempo nel 2006 devo dire che prese tutti, naturalmente. No, dal 2006 io penso una cosa, abbastanza in linea forse con quello che anche Cruciani poco fa diceva, e che penso sia anche un po' il modo di pensare del vero tifoso interista. Quello scudetto del 2006 io non l'ho mai sentito mio, e lo restituirei, anzi non l'avrei mai preso. Ma dico di più, anche proprio perché sono tifoso interista, mi sarebbe piaciuto tantissimo vedere annoverato quello scudetto sugli almanacchi della Juve, proprio perché sarebbe bellissimo ascoltare magari un papà che fra 30 anni racconti al proprio bambino perché nel 2006 la sua squadra vince uno scudetto e poi fu mandata in Serie B, anche per mantenere la memoria storica, visto che siamo un popolo che spesso dimentica quello che realmente succede. Questo sarebbe un modo per mantenere viva la memoria anche delle future generazioni e ricordare perché a quell'epoca la squadra che vinse lo scudetto poi andò in Serie B. Va bene, naturalmente registriamo anche questa opinione. Ricordiamo che l'iter adesso che la Juve può percorrere dal punto di vista così legale è un ricorso al TAR del Lazio, poi al Consiglio di Stato, eventualmente in ultima, ultimissima istanza all'Alta Corte della Giustizia Europea, ma ci spingeremmo molto in là. Vorrei capire però dal punto di vista così anche dell'ambiente, dell'atmosfera, facendo subito un grandissimo in bocca al lupo al prossimo arbitro di Juventus-Inter, che sarà sotto una pressione spaventosa. Le parole di Della Valle, sediamoci un tavolo, creiamo un clima nuovo, è possibile fare questo? Sono dirigenti, al di là di quelle della Juventus, sono gli stessi che c'erano 5 anni fa. Sì, la posizione della Valle è chiaramente anche questa, tra virgolette, viziata dal fatto che la Fiorentina fu penalizzata nel 2006, dunque si sente anche la Fiorentina vittima in qualche modo di un torto. L'ho detto esplicitamente, Auricchio deve dare una spiegazione, non è che lo dico solo io, lo dice anche il patron della Fiorentina. Perché, cari ascoltatori che scrivete, come leggo e come sentiamo dalle vostre telefonate, quelli che dicono è uno scandalo rimettere in discussione tutto, Moggi è una cosa e Facchetti un'altra, qui non stiamo discutendo di chi è più buono, di chi è angelo, di chi è diavolo, eccetera. Stiamo discutendo di una cosa molto semplice: perché il presidente dell'Inter considerava nel 2006 Palazzi una sorta di eroe, e abbiamo prove scritte di quello che il presidente dell'Inter pensava del principale indagatore, chiamiamolo così, delle cose calcistiche all'epoca, e invece oggi lo considera una sorta di personaggio manovrato da poteri occulti che vogliono fare un torto all'Inter, eccetera, eccetera. Insomma, la cosa va chiarita. Cioè, dopo quello che ha scritto Palazzi, al di là, rispetto, ripeto, degli aspetti giuridici, io credo che il presidente dell'Inter debba avere un po' più di senso del pudore quando parla di onestà e cose di questo tipo. Sì, devo dire anche, per dare così una contestualizzazione completa, che l'altra cosa curiosa è che allora e ancora poco tempo fa, in un'intervista realizzata anche dal direttore della Gazzetta ad Andrea Agnelli, il popolo della Juventus se la prese moltissimo con il primo giornale sportivo italiano, accusandolo di avere avuto un peso anche mediatico nell'inchiesta, e ora è l'Inter che prende questa posizione nei confronti di un giornale che oggettivamente ha sempre rappresentato, no, la milanesità. Sì, le ragioni della Juventus, a mio parere, nei confronti della Gazzetta dello Sport all'epoca restano tali. Cioè, effettivamente la Gazzetta dello Sport all'epoca ebbe un ruolo non secondario nell'indirizzare, cioè, due cose sono molto diverse. Oggi la Gazzetta dello Sport non sta facendo una campagna per la restituzione dello scudetto o per la rinuncia dello scudetto. È vero che c'è stato un editoriale molto forte nei primi giorni di Monti, del direttore, eccetera, eccetera, però non sta facendo una campagna per togliere lo scudetto all'Inter, mentre fece una campagna molto forte per, non solo per togliere gli scudetti alla Juventus, ma per una punizione esemplare nei confronti della Juventus e in particolare di quella dirigenza della Juventus all'epoca. Le due posizioni sono molto diverse. Certo, è curioso, come dici tu, che fu l'Inter, fu la Juventus all'epoca a prendersela con la Gazzetta, e oggi è la stessa Inter a prendersela con la Gazzetta. Tutti infelici e scontenti. Luca da Varese, prego. Sì, ciao. Innanzitutto, vabbè, sono milanista, quindi diciamo che sono super partes. Super partes, sì, ma non troppo. Diciamo che sulla lotta fra Juve e Inter sì, però diciamo che sono sempre di parte. E una battuta iniziale potrebbe essere: dopo che se n'è andato Leonardo, togliergli anche lo scudetto di cartone, non abbiamo più niente su cui divertirci con i nostri cugini. Ma a parte quello, ma io mi sono fatto un'idea sul discorso di Calciopoli in generale, soprattutto, non so se lo ricordate, con la docufiction che era andata in onda sulla 7. Sulla 7, sì. Sì, che era in realtà, dava insomma nella ricostruzione la prospettiva dell'accusa, poi nel dibattito successivo c'era un salotto che ha bilanciato discretamente la cosa, no? La docufiction fu fortemente antimoggiana, insomma, all'epoca. Ma era antimoggiana, però devo dire che se uno la guarda bene, però, alla fine capisce, se vogliamo pensare, ognuno di noi pensa al proprio mondo di lavoro, al proprio ambiente di lavoro. C'è sempre il potente, c'è comunque chi può esercitare il potere anche senza, basta uno sguardo, ha una sua rete, cioè è un ambiente di lavoro, e anche il mondo del calcio è un ambiente di lavoro. Chiaro che se un magistrato vuole creare un teorema su qualsiasi ambiente di lavoro per trovare dove sta l'accordo, il mezzo accordo, le cose, lo trovo ovunque. Soprattutto questa figura del Mazzini, almeno da quello che io ho letto all'interno di questa docufiction, mi dava l'idea delle volte di un gran millantatore. Cioè, sino preoccuparci, la palla deve entrare in porta, se la palla non entra e la volta che entrava hai visto? Cioè, io ritengo che alla fine Calciopoli, se si voleva creare, si è creata, se non si voleva creare andava avanti tutto così. E non penso che oggi le cose siano cambiate. Vabbè, comunque, perché... ecco, no, il discorso è che queste sono le sue sensazioni, lei le può esprimere, poi ci sono anche provvedimenti della giustizia sportiva che sono stati molto, molto pesanti nei confronti di Innocenzo Mazzini, sino ad arrivare alla radiazione. Su tutta la ricostruzione rimangono queste due figure che dal mio punto di vista sono quelle che hanno la prima responsabilità, non so se la più grave, ma la prima, che sono quelle dei due disegnatori, perché nel momento in cui i dirigenti iniziano a chiamare e chiamano, non è possibile accettare un contraddittorio, un confronto e dare anche così delle risposte anche positive a richieste su arbitri, griglie, eccetera, eccetera. Questo è inammissibile. No, ma Massimo, su questo hai ragione. La cosa fondamentale all'epoca erano i rapporti, che spero non esistano più, se non istituzionali, tra gli arbitri e i dirigenti all'epoca. C'era un sistema totalmente inquinato da questo punto di vista. Mancavano le prove regina della corruzione di una partita, della compravendita di una partita, perché questo bisogna sempre ricordarlo. Però che il sistema fosse inquinato nei rapporti tra i designatori e i dirigenti sportivi, chi più chi meno naturalmente, su questo non ci sono dubbi. Cioè, io sono dell'idea che il terzo il terzo, in questo caso il designatore, certo, il capo degli arbitri, non debba telefonare mai, certo, a un dirigente sportivo, se non per motivi istituzionali e certificati. Cioè uno deve dichiarare: oggi ho chiamato questo perché avevo bisogno di questo, questo e quest'altro. Cioè è improponibile un sistema in cui i dirigenti sportivi parlano con i designatori arbitrali. È una follia che spero dopo il 2006 non esista più. Senti, sulla base di tutte queste cose che abbiamo detto, di tutti i messaggi che arrivano, dell'anno che hai vissuto a Controcampo, è più facile o è più pericoloso parlare di calcio o di politica in Italia? Certamente di calcio. Sì, eh? Sì, certamente di calcio. Certamente di calcio. Cioè il cumulo di odio e di rabbia che c'è nel mondo del calcio non è assolutamente paragonabile a quello che c'è in politica, dove pure è molto alto, come sai, però sicuramente ci si attira molte antipatie o simpatie nel mondo del calcio piuttosto che con più facilità rispetto al mondo della politica. Che si fa il prossimo anno? È un'esperienza che pensi si ripeterà? Penso proprio di sì. Sì, eh? Penso di sì, poi non dipende solo da me. Tu arrivi da Roma, mi dicevi titoloni, un'atmosfera come sempre in estate, caldissima. Perché ti stupisci di questo fatto. Bisognerebbe ogni tanto riprendere dei titoli di luglio e di agosto e riportarli poi a gennaio, a febbraio, ma anche solo a novembre. Per quello che mai il mondo del calcio è fatto così ed è giusto che sia così, le speranze, i proclami, è una squadra meravigliosa, faremo grandi cose, eccetera. Io ti posso parlare di quello che sento della mia Lazio ed è un'atmosfera di grande ottimismo, anche se poi non è a Roma ma è da un'altra parte in questo momento, con i dubbi che ci sono di una squadra che si è rafforzata con giocatori trentenni, insomma, con giocatori di 30 infatti anni e oltre, come nel caso di Close che oggi sulle prime pagine di tutti i giornali per questi gol fatti in un amichevole, poi appunto ci si esalta per 5 gol in un amichevole contro l'Auronzo di Cadore, ma ci si esalterebbe lo stesso per i gol di Alvarez contro non so chi dell'Inter. Sì, sì. Però questo è assolutamente normale. I dubbi che ho riguardano i trentenni, insomma, la politica di Lotito, che è quella almeno per i grandi nomi di comprare giocatori di 30 anni, Klose, Sissé, che ne ha fatti 30 da poco, Klose 32, Stankevicius 30, lo stesso Conco credo che ne abbia almeno 27. Sì, anche l'albanese Cana non è giovanissimo. Anche Cana credo abbia 28-29. Sì. Senti, hai da fare, devi preparare la zanzara, puoi stare qui ancora 10 minuti, cosa preferisci fare? Certo. Ah, benissimo, volentieri. Allora, i mercati e poi torniamo ancora alle vostre telefonate, 800 24 0024, sms 349 238 6666. Jonathan, ufficiale all'Inter fino al 2015, ex Santos e Cruzeiro, da due giorni era già aggregato alla squadra di Giampiero Gasperini, ha giocato poco con il Santos, molto di più e meglio con il Cruzeiro. Poi si parlava in questi giorni con Franco Piantanida in redazione anche della sua adattabilità a un modulo diverso rispetto a quello in cui ha giocato in Brasile, in cui difendeva a 4. Vedremo poi se l'Inter di Gasperini veramente giocherà con la difesa 3. E poi Franco Piantanida sa tutto. Tutto, ogni espertissimo. Ogni giocatore tira fuori, sì. Vita, morte, miracoli. Uno gira, cambia scrivania, passa dall'altra parte e dice: scusa, questo qua che ha fatto? Lui dati, cose, questo ha giocato qui, ha giocato là, una cosa pazzesca. È vero. Fondamentale, ma Rosella Sensi? Assessore allo sport a Roma, incredibile. Capito. Decisione assurda del TAR del Lazio, questa è una questione politica, sai che sono un po' malato, di cambiare la giunta Alemanno, ma al di là di questo Alemanno decide di prendere, credo che sia un caso più unico che raro, un ex presidente di una squadra di calcio. Vabbè, in Italia siamo abituati, vedi il caso Carraro, a ritorni e a dinosauri di vario tipo, anche se poi Rosella Sensi per carità non può essere definita così, però caso più unico che raro, un ex presidente e che presidente di una squadra di calcio che diventa assessore in quella città. È un assessore importante in vista delle Olimpiadi del 2020. Che si dice a Roma, della Roma invece? Prima ci hai parlato un po' della Lazio. C'è scetticismo, no? In particolare Totti era stato un po' freddo nel giorno della vigilia della presentazione di Tomas Di Benedetto e Luis Enrique, che poi ieri hanno detto, no? Il futuro è Roma, non abbiamo costruito questa città in un giorno, ci vuole pazienza, ce l'avranno i tifosi giallorossi? La pazienza non c'è mai a Roma, non c'è da nessuna parte, in particolare a Roma. Me ne occupo poco della Roma, faccio solo un discorso che è questo. È normale che ci sia una situazione di incertezza, perché comunque anche dal punto di vista proprietario e societario la situazione non è chiara. Cioè il vero dominus è ancora Unicredit, non c'è dubbio, ancora i passaggi formali devono essere conclusi, e dunque l'incertezza è soprattutto questa. Credo che ci sia una sicurezza però, in un'incertezza che è normale, anche se giustamente oggi credo Toni Damascelli sul giornale scriva una cosa corretta, cioè in altri paesi arrivano russi, arabi e quant'altro, sborsano subito i soldi e fanno grandi acquisti. Qui i proclami degli americani, i proclami iniziali di questi americani non è che poi si siano trasformati subito in acquisti super e in giocatori di primissima fascia, però la certezza è che c'è un direttore sportivo che mi sembra abbia, come dire, in le palle, si dice in sì, gergo, si comunque può dire, uno certo. esperto che ci mette la faccia, che anche se che siamo in fascia protetta, ma si può dire Walter, che mi sembra abbia un mandato forte anche sì, Walter Sabatini con Baldini, che poi lo affiancherà e avrà un ruolo altrettanto importante da ottobre. Ci sono altri sms, naturalmente Alberto da Padova, che ricorda altri aspetti di cui abbiamo già parlato e che non è il caso di sottolineare ancora, nel senso che noi li diamo per scontate per chi ci ha seguito, ovvero che la Juventus si dichiarò consapevolmente colpevole, non ricorso in appello, eccetera, eccetera, eccetera, nel 2006. Poi ora la strada è differente, ma sono due aspetti, come dire, separati, sono due vicende dal punto di vista giudiziario separate. Io sono un grande tifoso di Andrea Agnelli, devo dire la verità, sì. Pur non essendo juventino, sì, sono un grande tifoso perché ha avuto grande coraggio nel rimettere in discussione qualcosa che sembrava morto e sepolto, e secondo me ha fatto bene. Credo che la strada percorsa abbia dato, come dire, orgoglio a tante persone che si sono trovate in difficoltà in quegli anni. Difficoltà, è servito appunto, un po' anche a coprire le difficoltà attuali dei risultati, Può darsi, ma non credo che sia stata una cosa studiata. È una cosa che Andrea Agnelli ha sempre pensato, non ha mai rinnegato la dirigenza precedente, che invece era stata liquidata con facilità dai suoi predecessori. E credo, ripeto, che abbia avuto anche... Non era facile rimettere in gioco tutto, l'ho fatto e chapeau. Ecco, per concludere il discorso, sempre da un punto di vista così più tecnico, allora la Juventus si fermò nel momento in cui ci fu un patto non scritto nell'accettazione del meno 9 come ultima penalizzazione, senza poi procedere extra giustizia sportiva. Quella è una vicenda, questa è un'altra, quella dell'esposto sullo scudetto, che può permettere di andare anche su ambiti amministrativi come quello del la Lazio e del Consiglio di Stato. Che la Juve non si sia difesa in quegli anni è un dato storico, eccetera. Poi si è fatta grande dietrologia sul perché non si sia difesa, ma questo è un altro capitolo. Marco, dalla provincia di Firenze. Buonasera, no, sempre intervenendo sulla vicenda dello scudetto dell'Inter, ecco, secondo me sarebbe auspicabile che l'Inter facesse un passo indietro e rinunciasse, insomma, allo scudetto, sarebbe ecco, una figura migliore, anche perché quella vicenda lì non è che ha influenzato solo quella stagione lì, ma anche le stagioni successive, che indubbiamente, risparmiando una sola squadra tra tutte quelle più forti, ha favorito enormemente l'Inter anche per i campionati successivi. Ecco, forse il campionato un po' più combattuto è stato l'ultimo, ecco, gli altri sinceramente le poteva vincere a mani basse, non è stato proprio così, ma insomma. Beh, lì andiamo un po' in là, magari no, i primi però, due, però i due di Mourinho un po' meno. L'ascoltatore ha ragione, anche qui non bisogna essere tifosi, perché bisogna togliersi di dosso anche questa ipocrisia, cioè non bisogna essere tifosi della Juventus o essere anti-interisti, categorie che io non conosco, per affermare una cosa molto semplice, che tutti i campionati dal 2006 in poi sono stati influenzati, sconvolti da quella decisione lì. Adesso, ripeto, non bisogna essere tifosi per dire una cosa di questo tipo. Gli scudetti dell'Inter 2006 in poi sono scudetti che, insomma, da un punto di vista sportivo, e parlo sportivo, certo sono in bacheca, quello che vogliamo, ma insomma erano, non dico scontati, ma quasi. C'era solo l'Inter all'epoca, un po' la Roma, ma quasi solo. Sì, beh, poi comunque il Milan e la Roma... Il Milan ebbe le penalizzazioni nel primo anno, poi dopo riprese, insomma, il suo percorso in maniera naturale. La Juventus è tornata, ha fatto i suoi errori, ha avuto grandi budget a disposizione. Qui però, secondo me, Giuseppe, andiamo oltre, in un campo che è molto soggettivo, no? E questo poi dopo dà anche adito a chi dice allora gli scudetti di prima, cioè la Juventus, certo, andiamo, andiamo molto in là. Ci sono altre telefonate? No, proseguiamo noi. Allora c'era un ascoltatore che mi sembrava in attesa e tra poco adesso probabilmente lo riavremo. Senti, mi dici in questo momento cosa ti sta così affascinando del calciomercato, se ti piace anche questo questa baraonda del calciomercato continua, che rimane, no, beh, in io vorrei da tutto giugno l'anno, a settembre, sì, tutto l'anno vorrei il calciomercato. Avevo una dubbi. Cose, è una delle cose più straordinarie che siano mai state inventate. Ti ricordi quando il calciomercato era limitato? Certo, no? Sì. I giocatori non si potevano più muovere, eccetera. Troppo facile, aperto, dici, grande... allora, troppo facile. No, no, ma insomma è il periodo dei sogni, delle speranze, delle grandi promesse. Bisogna sempre prendere con le molle, ma è anche il periodo in cui tutto cambia e dunque affascinante per questo. Mi affascina chiaramente il Napoli, che mi sembra la squadra, insomma, che si sia rafforzata di più. Insomma, oggettivamente, se devo fare una griglia in questo momento, al di là del Milan, che chiaramente resta in pole position, poco dopo c'è il Napoli. È vero, in attesa poi di capire l'Inter, i suoi investimenti e anche le sue cessioni a partire da Sneijder e Maicon, se ci saranno o meno. Maicon è tornato poderosamente anche in nazionale la scorsa notte, anzi due sere fa, con il Brasile. Ma questo Rayo l'ha desaparecido invece, come lo vedi? È sparito dalla circolazione? Quando sparisce dalla circolazione bisogna preoccuparsi per qualcosa. Non lo so, credo che alla fine un colpo all'anno lo mette sempre, no? A segno, per cui aspettiamo dal 20 al 30 agosto, che mi sembra la cosa migliore. Manuele da Bergamo, prego. Buongiorno, volevo intervenire sul discorso scudetto 2006. Prego. Sono tifoso interista, premetto, però sono un tifoso di quelli che valuta le cose e non si porta avanti come tifoso interista. Mi chiedevo, una società come l'Inter, che a quanto pare si dice abbia manipolato arbitri per certe partite, in 20 anni ha vinto uno scudetto solo, si è riportato a perdere uno scudetto già vinto, diciamo, perché guardando il potenziale era già vinto nel 2001 contro la Lazio. E mi dico, se manipolava gli arbitri o una società di dirigenti un po' fessacchiotti, io non saprei cosa pensare, perché... No, va bene, il punto però che è fondamentale, che spesso viene messo da parte, è che non c'erano solo Juve, Milan e Inter a fare quei campionati, c'erano altre 17 squadre e quindi comunque c'era un tentativo che è sufficiente per la giustizia sportiva, che vada o no a segno poi e a compimento. Secondo l'accusa di Palazzi, questo va sempre precisato, quindi secondo un atto investigativo del procuratore federale, c'era un tentativo di avere vantaggi che erano e potevano essere semplicemente sufficientemente anche vantaggi nei confronti di tutte le altre società medie o piccole che affrontavano l'una o l'altra squadra. Fabio da Novara, prego, poi salutiamo Giuseppe. Sì, buongiorno. Io volevo fare una considerazione sulla pratica che non considero molto chiara di riassegnare lo scudetto. Cioè, faccio un esempio molto semplice: se trattiamo di una gara dei 100 metri piani in atletica, è chiaro che se il vincitore venisse scoperto positivo al doping, il secondo diventa primo. Ma in un campionato di calcio o un altro campionato, anche un altro sport dove c'è una successione numerosa di partite, che senso ha togliere il titolo al primo e assegnarlo al secondo? E questo che non riesco a capire. Ma infatti, no, Giuseppe, ci fu questo comunicato stampa che adesso è riemerso, no? come carta ufficiale per motivare quella decisione. E non un provvedimento ufficiale, che è curioso, no? Che non ci sia un provvedimento ufficiale nelle carte della Federcalcio, ma un semplice comunicato che assegnò in sostanza lo scudetto all'Inter, a parte che in quel caso l'Inter arrivò addirittura terza in quel campionato a 15 punti di distanza dalla Juventus, questo bisogna sempre ricordarlo, terza a 15 punti, e non per i magheggi di Moggi, ma per inferiorità tecnica. Ma l'ascoltatore di prima, non l'ultimo, parlava di arbitri manipolati. Nessuno ha mai detto che l'Inter abbia manipolato degli arbitri, che siano emerse delle manipolazioni in quelle telefonate che abbiamo ascoltato a tanti anni di distanza, ma semplicemente il fatto che ci fossero dei colloqui in cui si parlava di designazioni, che più o meno è la stessa accusa che è stata fatta alla Juventus. L'anno di riferimento dell'ascoltatore poi era il 2002, non il 2001. Sì, quello del 5 maggio, certo. 5 maggio. Va bene, ci Ciao rivediamo Massimo. Presto. Un abbraccio. Buona serata, buon lavoro e buone vacanze. Saluti a tutti. Tipo di ogni considerazione, da ogni parte, insomma, su questo tema. Ci fermiamo un attimo però e parliamo di sport al momento veramente di altissimo livello. Ieri è stato un finale di tappa al Tour de France spaventoso. Frank Schleck, motorizzato, che è andato a guadagnarsi secondi importanti. Ivan Basso, che ha retto alla grande. Un ottimo Damiano Cunego. E poi Piero Augusto Staggi, bentornato dal Tour de France. Questo Contador a bocca spalancata, affannato all'arrivo. Sì, infatti è un'occasione d'oro per il nostro ciclismo, per Basso, per Koenig, un po' per tutti, per i fratelli Slack. L'unico che può veramente, a mio modesto parere, giocare a difendersi e quindi non strafare è Cadel Evans, perché tecnicamente è quello che va meglio in salita, ma va molto forte anche a cronometro, cosa che invece i fratelli Schleck, Bass e Cunego a cronometro sono molto molto deboli e quindi devono anche lavorare in prospettiva cronometro di Grenoble. Ricordiamoci che oggi c'è ancora una tappa pirenaica non impossibile, difficile ma non impossibile, domani molto dura, dopodiché si andrà verso le Alpi per il gran finale della settimana prossima con le tappe del Galibier, dell'Alpe d'Huez e la cronometro di Grenoble. Quindi Basso in modo particolare, Cunego, ma anche gli Slack, se vogliono ambire a salire sul podio di Parigi, ma soprattutto di vincere questo tour, devono guadagnare molto su Cadel Evans e su Contador, perché entrambi sono due scalatori che vanno molto forte al cronometro, a differenza loro. Ivan Basso ha dato una bella dimostrazione ieri, eh? Esatto, però è confortante il fatto che alla prima verifica importante, dopo 12 giorni di logoramento fisico ma soprattutto nervoso, sia stato forse il più brillante. Innegabilmente ieri Ivan ha dimostrato di essere quello più reattivo, più agile, più leggero, più concentrato, il meno sofferente. Dal suo volto traspariva grande sicurezza e grande serenità, cosa che non hanno avuto né i fratelli Schleck, neanche Damiano, bisogna dirlo, perché è stato molto bravo e da applausi, ma diciamo che ha subito la corsa sempre, molto attaccato al manubrio, sempre diciamo un po' al gancio. Cadel Evans così, però ribadisco, Evans è nella posizione migliore in questo momento, è quello che lui, se non commette errori, veramente è il favorito. E Contador certamente in questi 15 giorni è stato molto sfortunato, forse non è arrivato al top, è caduto 4 volte, ha picchiato 2 volte il ginocchio gli fa male, alcuni pensavano che fosse pretattica, noi no, abbiamo detto subito che in realtà, anche perché avevamo parlato con Tosatto che ci aveva detto che in realtà il Contador stava male ed erano preoccupati proprio per questo, poi in realtà c'è stata una piccola crisi interna alla Saxo Bank, hanno cercato di minimizzare, non è vero, è un modo di fare, e poi in realtà poi la prima verifica Contador l'ha detto chiaramente, mi fa male il ginocchio. Quindi qual è il discorso? Che bisogna cercare di guadagnare il più possibile prima che il ginocchio magari vada a posto, anche se non è così facile, però non bisogna mai fidarsi di un corridore di classe come Contador, perché proprio alla luce proprio della gara di ieri, uno sofferente, uno che ha un male in ginocchio, in realtà ha pagato 13 secondi negli ultimi 500 metri, quindi non c'è da fidarsi di uno così, perché è un corridore di classe immensa, è un corridore fortissimo e quindi bisogna lavorare sul ginocchio senza dargli possibilità di rimarginare le ferite. Va bene. Però diciamo che siamo messi bene. Per la cronaca, tanto per dire, la corsa è partita lunedì 10, c'è una fuga di 10 uomini, in questi 10 uomini c'è il campione del mondo Thor Ushov e Alessandro Petacchi. Va bene, grazie. Appuntamento naturalmente con Piero Augusto Stagi all'interno dei GR di Radio 24 oggi e nel weekend e poi la settimana prossima quando tornerà a possedere il suo scranno dorato Carlo Genta in A Tempo di Sport. Un altro aggiornamento sulla tappa attuale: il team Radio Shack ha perso un altro dei suoi leader, il tedesco Andreas Kloden, vittima di numerose cadute, ha abbandonato il tour, era giunto secondo 2 volte nel 2004 e 2006, ha lasciato dopo aver percorso una 30 di chilometri, occupava il 24esimo posto in classifica generale, più di 10 minuti dalla maglia gialla Thomas Verclaire, che ieri ha saputo resistere con grande onore agli allunghi dei suoi più accreditati rivali. Fra le varie considerazioni ce n'è una anche così un po' ironica per sdrammatizzare, di un tifoso interista che non si firma, che dice: sapete cosa vi dico, io godo se ci tolgono questo scudetto, perché a noi non interessa più di tanto averne uno o meno, uno in più o in meno, e siccome Facchetti per me non ha fatto niente, sarà un furto se ce lo tolgono e potremo lamentarci a vita per questo furto. Che goduria. Champagne, Nicola da Torento, da Taranto. Sì, buongiorno. Prego. Anzi, buon pomeriggio. Esatto. No, io sono un tifoso interista, però fondamentalmente sono sportivo. Non so chi è il vostro ospite, l'interlocutore. Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara. Ah, benissimo. Quindi è un grande... Noblesse oblige. Sì, senz'altro. Lo ascolto spesso. Io però volevo... Questo, sa, parlando di intercettazioni, c'è questa questione che si discute tanto in Italia, eccetera, cioè fondamentalmente sul merito, i contenuti delle intercettazioni. E sui contenuti io voglio far notare una differenza fondamentale. Le intercettazioni di Moggi erano, cioè i contenuti delle intercettazioni, che cosa hanno evidenziato? Il discorso di, come dire, avere il favore. Le intercettazioni di Facchetti erano invece volte a che cosa? Dire il torto che era l'effetto del favore. Ma insomma, domanda. Quella del 4-4-4 con Bertini mica tanto, Ma guardi, ma Bertini è là, io sono interista, quindi seguo le partite dell'Inter. Bertini, arbitro che in un Perugia-Inter convalidò un gol di Vrizas di testa perché il suo guardalinee, guarda, avevo il sole di fronte, non ho visto che l'ha fatto con la mano. Lo dico io, vedevo io quella partita. No, certo, però me la ricordo questo. Quella lì, me la ricordo, però come tante altre di tutti quegli anni. Ma voglio dire, ripeto quello che ho detto prima, perché poi la linea che abbiamo avuto qui in queste settimane, in queste due settimane perlomeno, è stata molto chiara, cioè teniamoci alla realtà dei fatti, di come si sono sviluppati ed evoluti, e teniamoci anche all'aspetto così legale, giuridico, senza scendere nei tecnicismi, però ripeto, è fondamentale questo aspetto. Per la giustizia sportiva avere o solo tentare di ottenere un favore è la stessa cosa, e quindi l'illecito è la cosa, il comportamento illegale c'è in un senso e nell'altro. Non è necessario che ci sia la prova che sia ottenuto quello che si è chiesto o si è cercato di chiedere, ma è sufficiente che ci sia questo tentativo di illecito. Questo purtroppo è o per fortuna, anzi, perché è giusto che sia così dal punto di vista della giustizia sportiva, è questo l'aspetto fondamentale, ed è questo che poi dà vita a tutte le considerazioni del procuratore federale Palazzi. Siamo in chiusura dopo questa giornata in cui siete stati come sempre molto vivaci, grazie anche alla presenza di Giuseppe Cruciani, che ha tenuto su di sé calamitato grandissima attenzione. È stato per me un grande piacere come sempre vivere queste due settimane con voi. Ringrazio Franco Piantanini in redazione e Mauro De Angeli in regia per la loro collaborazione. La settimana prossima torna, dopo le sue sperimentazioni a base di surf, Carlo Genta. Appuntamento a prestissimo anche su Radio 24. Buona estate da Massimo Callegari.